fa piacere vedere così tanto pubblico questa sera, vuol dire che la collaborazione tra la biblioteca e il centro di psicosintesi ha funzionato molto bene, quindi noi della biblioteca Claudio Augusta siamo molto contenti, lo sarà immagino anche il centro di psicosintesi. Io rubo solo un paio di minuti per portarvi i saluti innanzitutto della direttrice dottoressa Felisanda, della direttrice della biblioteca, e per ricordarvi i prossimi due appuntamenti che la biblioteca Claudio Augusta organizzerà per martedì prossimo, e saranno due appuntamenti appunto tutti e due martedì, uno alle 17 nella sala grande della biblioteca, verrà presentato l'ultimo libro di Alberto Foschini, Vivere secondo natura, quindi l'uso delle erbe nella cucina e nella vita di tutti i giorni. Alberto Foschini, sì, Foschini, non Faustini, niente. E questo alle 17, alle 18 invece, quindi chi poi vuole fermarsi qui in questa stessa sala, sempre martedì, invece presentiamo, ci sarà la serata del Caffè Philosophique, appuntamento che molti di voi conoscono, questo qui invece dedicato alla filosofia e all'architettura, con l'architetto Lupin, quindi questo invece alle 18 in questa sala al primo piano. L'ultima cosa che voglio ricordarvi, la collega Karin, che rimarrà qui questa sera con voi, e se avete domande poi sulla biblioteca alla fine della serata potete chiedere appunto alla collega, ha portato su dei libri legati al tema della psicosintesi, si trovano lì in fondo vicino a Renato, grazie, e che si possono prendere in prestito. Abbiamo anche libri dell'autore di oggi, ma purtroppo sono rimasti in una sede distaccata, ma sono a disposizione, li potete trovare sul nostro catalogo, prenotare e prenderli in prestito. Do il benvenuto anche alle ultime persone e vi saluto, vi ringrazio ancora una volta di essere qui così numerosi, vi auguro una buona serata, spero di rivedervi alle prossime iniziative, e lascio la parola al centro di psicosintesi che ringrazio. Sono Lara Broccato, sono la vice direttrice del centro di Bolzano. Vi porto i saluti della Lisa Gemma Gasperi, che è la direttrice del centro e purtroppo è bloccata a casa con una di schiena. Ringrazio il centro Trevi perché effettivamente questa collaborazione si sta manifestando importante, e quindi siamo molto contenti di averla messa in atto. Volevo solo dire due parole sulla psicosintesi per chi magari tra voi non ha ancora avuto modo di conoscerla. La psicosintesi è una psicologia fondata da un metodo psicologico fondato da Roberto Saggioli, che è stato allievo di Freud e di Jung, e poi ha preso la sua strada e ha messo a punto tutta una serie di tecniche che, oltre a rivolgersi a persone che possono avere problemi e quindi rivolgersi a uno psicoterapeuta, ma soprattutto a persone sane che hanno voglia di conoscere meglio se stesse, e quindi attraverso queste tecniche esiste un corso di autoformazione che viene implementato in sala anche da noi. Adesso da noi ci sono due corsi in corso, appunto, in questi incontri, attraverso delle esperienze che possono essere esperienze sia di disegno, di scrittura, e stasera ne parlerà diffusamente, visualizzazioni, meditazione, movimento, insomma tantissime esperienze che consentono alle persone di conoscere meglio se stesse. E, diciamo, i tre punti cardine sono: conosci te stesso, possiedi te stesso, quindi una volta che ti conosci impara anche a governarti, a governare le tue emozioni, le tue reazioni, e poi trasforma. Nel momento in cui c'è qualcosa che tu vuoi migliorare, hai la possibilità di trasformare e di rendere te stesso la migliore versione di te possibile. L'altra cosa importante della psicosintesi è che i nostri corsi di formazione vengono svolti in gruppo. Il fatto di essere in gruppo permette di specchiarsi nell'altro, permette di vedere in se stessi cose che altrimenti magari sarebbero più difficili, e questo insomma, diciamo che è una caratteristica della psicosintesi rispetto ad altri tipi di psicologia. Ecco, allora ho parlato del corso di autoformazione. Prima di poterlo affrontare è necessario partecipare a dei corsi di base, e il primo per quest'anno partirà proprio mercoledì prossimo. Sono 7 incontri, dei quali i primi 3 sono proprio conoscitivi e gratuiti, e poi se uno vuole approfondire ce ne sono ancora 4 dove si comincia a fare proprio delle esperienze. Quindi mercoledì prossimo presso il centro, in via Portici 51, inizierà dalle 7:30 alle 9:30 questo corso base, per chi di voi fosse curiosito a vedere come funziona. L'ultima cosa che volevo dire in fondo, se qualcuno fosse interessato può lasciare proprio il recapito, così può ricevere la nostra newsletter con tutte le novità che della nostra attività, può prendere uno dei nostri programmi. Il 22 di febbraio ci sarà un'altra conferenza qui con il professor Rese, che presenterà il proprio libro, scusate, questo non mi ricordo, La scoperta di sé. E poi le cose che dovevo ricordare sono poi le cose che dovevo ricordarmi me le sono ricordate. Quindi alla termine della conferenza, se qualcuno è interessato può avvicinarsi al banco in fondo e chiedere ulteriori informazioni. Lascio la parola a Sandra Passarello, che ci presenterà il dottor Bocconi. Niente, buon ascolto. Grazie. Ho il piacere e l'onore questa sera di essere io a presentare Andrea Bocconi, psicologo, psicoterapeuta, allievo diretto di Roberto Assagioli, che è promotore della psicosintesi ed è anche uno dei docenti formatori dell'Istituto di Psicosintesi. Uno psicologo, psicoterapeuta e anche uno scrittore. E Andrea Bocconi ha scritto diversi sia saggi che libri di narrativa. Questa sera, tra le altre cose, ce ne presenterà due. Uno si intitola Duelli, che ha a che vedere con una delle altre passioni di Andrea Bocconi, che è la scherma. Ci presenterà anche brevemente il corso che terrà domani e dopodomani sulla scrittura, perché da sempre Andrea Bocconi utilizza la scrittura creativa e autobiografica come, diciamo, indagine e autoformazione di se stessi, ma anche nell'ambito clinico, e quindi ci parlerà in sostanza di quello che è il potere della scrittura e che la scrittura spesso è anche una forma per curare se stessi. L'altro libro che ci presenterà è Psicosintesi per educatori, e vorrei dire che il tema dell'educazione è un altro tema molto importante. Infatti Andrea Bocconi ha dei progetti con quella che è diventata la Fondazione Verso, che prima era un'associazione, adesso una fondazione, e ci sono diversi progetti proprio sul tema dell'educazione nel senso più ampio, quindi non solo l'educazione come possiamo intenderla in ambito scolastico per i bambini, ma proprio l'educazione in un senso più ampio. Mi viene in mente Don Milani che diceva: nessuno educa nessuno, ma ci si educa reciprocamente. Io ho avuto il piacere di frequentare un corso di formazione a Firenze con Andrea Bocconi e è stato veramente molto interessante. È anche un docente della scuola di viaggio, docente di scrittura della scuola di viaggio, perché uno dei temi anche spesso percorsi nei tuoi libri è proprio il viaggio. Quindi abbiamo diversi punti, io me ne sono segnati alcuni: viaggiare e non partire, il giro del mondo in aspettativa, il buon passo, il viaggio con l'asino e diversi altri. Lascio la parola a te, che ci puoi sicuramente approfondire tutte queste tematiche, e buon ascolto a tutti. Grazie. Signore che vedete alle mie spalle, Assagioli, negli ultimi anni della sua vita, aveva, io quando l'ho incontrato, avevo 21 anni e lui ne aveva 84. Ed è stato l'incontro che ha cambiato la mia vita e mi ha salvato dalle professioni giuridiche, indirizzandomi invece verso la psicologia. Vedete, ho scelto questa fotografia perché si vede a Sagioli, una bella stilografica che sta scrivendo. A Sagioli cominciava il suo essere mentore dei giovani che si avvicinavano, chiedendo a tutti di fare un'autobiografia, anche se uno aveva 20 anni. Ed è rimasta famosa il fatto che uno dei miei colleghi, che ora siamo i brontosauri della psicosintesi, ma uno dei miei colleghi, Alberto Alberti, scrisse una ponderosa autobiografia di una cinquantina di pagine. A Sagioli la soppesò, la lasciò cadere in terra e disse: questo è il passato. E è molto interessante come atto psicomagico, perché il potere dell'autobiografia, ne parleremo più diffusamente man mano, a Sagioli lo conosceva benissimo. Oggi vedremo poi che è anche dimostrato dalle ricerche. Chiedeva anche di tenere un diario, no? Tutti noi abbiamo tenuto un diario da adolescenti, quei diari con la chiavina, segreti che le madri cercavano disperatamente di forzare. Perché teniamo un diario, perché scriviamo? Perché è un modo potente di parlare con se stessi prima di tutto. Io ho coltivato la scrittura, tenevo i diari e scrivevo piccoli racconti, e ho coltivato la scrittura come qualche cosa di parallelo alla mia professione di psicologo, di psicoterapeuta, e anzi le tenevo molto separate, perché per esempio quando ho cominciato a pubblicare ero molto incerto se usare uno pseudonimo per tenere questi mondi separati. E poi le considerazioni che ho fatto sono due. La prima è di farsi vedere nella propria interezza, la seconda semplicemente la vanità di vedere il proprio nome sul libro, e quindi ho scelto questo. Però a un certo punto mi sono reso conto che potevo benissimo utilizzare la scrittura, come accennava prima Alessandra, nel lavoro con gli altri, lavoro a tutto campo, non solo con i pazienti, ma con gli adolescenti. Proprio fra pochi giorni comincio un corso con un gruppo di adolescenti mescolato ad anziani. Sarà molto interessante avere un gruppo ibrido, non mi piacciono queste separazioni. E ho lavorato per 2 anni e mezzo in un carcere con la scrittura. Esperienza estremamente interessante, è nata in un modo molto bizzarro. Vado a vedere uno spettacolo teatrale in carcere, a cui era stata invitata mia moglie, che è psicologa ma si occupa di teatro da sempre, e era un Don Chisciotte, e io dico a mia moglie: ma sai che quel Don Chisciotte lo conosco, uno dei detenuti, è un po' un topos di famiglia che conosco, incontro sempre qualcuno che conosco. Finisce la rappresentazione, lo vado a incontrare e avevamo fatto il militare insieme nel centro sportivo dell'esercito, dove finivano tutti quelli che erano già pregiudicati e quindi non potevano andare in polizia o nei carabinieri, o un pugile. Questo pugile, tutto contento, siamo molto affettuosi, ci abbracciamo e lui dice: vieni che ti presento il direttore. Quindi io sono stato presentato al direttore del carcere da un rapinatore. E poi molto attivo questo amico ha detto: perché non vieni a fare qualche cosa da noi? Il direttore era sempre più perplesso in quel momento. Però io ho detto: ma io vengo, ma non voglio fare lo psicologo, perché c'è uno psicologo del carcere, perché lo psicologo del carcere ha un ruolo anche molto delicato, perché insomma rappresenta, comunque fa parte dell'istituzione, quindi è in una posizione molto delicata. Disse: vengo a fare un corso di scrittura. e mi sono trovato a fare un corso di scrittura che è durato 2 anni e mezzo, è stata un'esperienza per me bellissima, però con un gruppo composto per più del 50% da stranieri, quindi in seconda lingua, e con un livello di scolarità, forse non avete idea di quante persone hanno solo la licenza elementare ancora oggi nel carcere. E quindi abbiamo fatto un lungo lavoro sulla scrittura, perché è uno strumento potente. Prendiamolo un po' alla larga, partiamo dai sumeri, no, le prime testimonianze di scrittura. La cosa interessante è che le prime testimonianze di scrittura, che poi sono incisioni su tavolette d'argilla, riguardano sostanzialmente due argomenti: il sacro e l'economico, cioè sono per esempio inventari di magazzino, e quindi no, è interessante perché sono due filoni che rappresentano diversi livelli della coscienza e diverse manifestazioni del nostro essere. La scrittura con i geroglifici è molto interessante perché probabilmente fa lavorare il cervello in una maniera diversa, in quanto che il fatto che sia una scrittura che utilizza l'immagine ed è scrittura al tempo stesso, secondo alcuni studi fa lavorare insieme l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. Per esempio, è uno dei motivi per cui si ritiene che chi maneggia anche gli ideogrammi, per esempio degli studenti cinesi, anche per questo ha dei successi scolastici particolarmente rilevanti. Hanno sorpassato le teste i coetanei americani con grande smacco degli americani. Quindi la scrittura, secondo come viene usata, ha anche proprio un potere evidente sugli aspetti cognitivi. Questo è bellissimo, è l'ideogramma Mu del vuoto, che è il senso del vuoto. Allora è la scrittura che diventa bellezza, no? È una cosa molto interessante quello che sta succedendo ora, perché da un lato c'è un grande allarme perché i ragazzi non sanno usare il corsivo, in molti, addirittura scrivono stampatello perché non sono capaci più di usare il corsivo, e soprattutto no, il prevalere della tastiera sulla scrittura a mano. Però contemporaneamente si verifica un fenomeno interessantissimo: i corsi di calligrafia sono pieni, c'hanno liste d'attesa, quindi c'è un qualche cosa che viene riconosciuto importante e che continuiamo a utilizzare. A me piacciono molto queste esteticamente, questa è Devanagari, siamo in India, è l'alfabeto indiano, e questa è calligrafia. Allora, siamo ad Adamo e questa è una rappresentazione di Adamo che dà il nome agli animali, cioè Dio gli dà questo potere, quello di dare il nome, e questo è interessantissimo perché è un potere sacro. Quindi, però, sul piano del funzionamento del nostro cervello, se noi non abbiamo i nomi, noi non facciamo le distinzioni. Pensate per esempio a la percezione del colore che ha un uomo medio come me, un pittore, e qualsiasi signora che è interessata alla moda. Io ho un vocabolario di, mettiamo, 15 colori. Mi spiegava un pittore che l'occhio è capace di distinguere circa 1 milione di variazioni, ed è per questo che se vedete sul computer i programmi di grafica, questi sono i numeri, e chiaramente per me questo maglione è celeste, ma la signora forse mi dice no, veramente non è celeste, com'è? Carta da zucchero. Allora è molto interessante l'idea, però, che se non abbiamo le parole non vediamo le cose. E in un testo teatrale non bello, ma piuttosto pedagogico, ma interessante, di Dario Fonti tanti anni fa, il titolo era L'operaio conosce 800 parole, il padrone conosce 2000 parole, per questo lui è il padrone. Allora, è una cosa interessante, perché per esempio nel Nepal c'era una dinastia reale e c'era una dinastia di primi ministri. Il potere lo avevano i primi ministri, il re era rappresentativo, rappresentava un po' la sacralità, ma non aveva il potere. Che cosa facevano questi primi ministri? Non insegnavano a scrivere ai giovani della famiglia reale, li tenevano analfabeti, no? Interessante, no? Proprio sapendo che la parola è potere. Del resto è il latinorum, no? Manzoniano, no? Evidentemente. Pensate alla, qua di nuovo un'altra immagine di Adamo che dà il nome agli animali. Pensate alla meraviglia della trasmissione della parola degli amanuensi da questi monasteri dove si ricopiavano i libri, no? Oggi siamo senza dubbio in una delle grandissime rivoluzioni dell'umanità, della digitale, ma il grande passaggio è stato quello di Gutenberg, il passaggio dal libro bignato, dal libro copiato a mano, alla stampa che rende popolare il libro e rende accessibile. I libri costavano quanto un appartamento, certi libri costavano quanto un appartamento. Quindi questa relazione tra la scrittura e il potere che la rappresenta. Qua c'è una delle, arriviamo a noi, c'è una delle citazioni che mi diverte di più. William Faulkner, premio Nobel per la letteratura, recentemente riscoperto, Adelphi lo sta stampando di nuovo, non capisco come fa chi non scrive a non impazzire. No. Interessante perché esprime uno degli effetti, dei valori della scrittura, quello di dare una forma ai nostri deboli e permetterci di vederli e vederli a un braccio di distanza. In inglese usano questa espressione, a un braccio di distanza, ma nel caso della scrittura è materialmente vera, è a un braccio di distanza. Per questo scrivevamo il diario. Spero che qualcuno lo scriva. Alzano la mano quelli che hanno tenuto un diario in qualche momento della loro vita. Moltissimi, in prevalenza donne. Ma perché noi uomini siamo un po' più grossi, nel contatto con noi stessi, questo è un dato di fatto. Alzi la mano chi lo tiene ancora. Parecchie mani, accidenti. Questo mi fa piacere, mi sia sentito a te. Allora, per esempio, il diario è uno strumento molto interessante perché intanto non è vero che non lo leggo a nessuno, perché lo leggo a me stesso e poi perché lo rileggo, quindi stabilisce una continuità con me stesso nel tempo, no? Quando il nostro dramma lo rileggiamo 15 giorni dopo ci sembra già meno drammatico, no? Abbiamo preso una distanza e quindi c'è stato anche un valore intanto catartico al di là di ogni pretesa letteraria. Questo signore era stato lasciato, diciamo, in tronco dalla moglie, un professore di psicologia sperimentale di un college americano, e per la prima volta sente il bisogno di tenere un diario. Dopo 3 settimane osserva che sta un po' meglio, che gli sta passando il dolore. Siccome interessante che non è uno psicologo clinico, non è uno psicoterapeuta, è uno psicologo sperimentale, e quindi decide di fare un disegno sperimentale. E il disegno sperimentale è molto semplice, molto elegante, perché in un disegno sperimentale bisogna cercare di ridurre le variabili al minimo, per poter tenere sotto controllo. Che cosa fa per Mario? Fa un questionario anonimo con i suoi studenti del secondo anno e per individuare tra i suoi studenti quelli che riportano qualche grave trauma nei primi 18 anni di vita. Per grave trauma c'è un'ampia gamma che vanno, penso io, dagli abusi alle morti precoci di genitori, separazioni, divorzi, tutta una gamma di gravi malattie. E il gruppo di controllo, stessi studenti del secondo anno che non hanno quell'esperienza. Che cosa fa? Correla questi dati, non con ricorso allo psicologo del college o allo psichiatra, ma li correla con ricorso al medico generico, ovvero quanto si ammalano questi due gruppi. Ve lo immaginate già, il gruppo che riporta dei traumi psicologici si ammalava quasi il doppio dell'altro gruppo. Allora, su questa base, su questo rilevamento, Penne Barber fa un disegno sperimentale molto semplice per eliminare al massimo tutto ciò che non è controllabile. Scrivi del tuo trauma 20 minuti al giorno per 5 giorni consecutivi. Nessuno leggerà, nessuno ti darà un feedback. Quello che è scritto verrà distrutto. Questo per, no, per non intervenire, diciamo, in modo quasi terapeutico su questo. Gli studenti fanno questa esperienza e riportano sul piano psicologico molti che è stato molto doloroso scrivere di questo trauma. Però l'anno dopo il ricorso al medico di base è lo stesso, non si ammalano più come prima. Questo suscita l'interesse della facoltà di medicina e quindi successivi esperimenti coinvolgono gli immunologi e viene fuori senza ombra di dubbio che il sistema immunitario si rafforza attraverso la scrittura, no? Ora Faulkner lo sapeva. Quando tenevamo il diario per i nostri dolori, specialmente quelli adolescenziali, lo sapevamo. Però è interessante perché questo ha aperto la strada non solo a certe conferme sicure, ma a applicazioni vastissime. Per dirne una, persone che hanno perso il lavoro, cinquantenni che hanno perso il lavoro, divisi a caso in due gruppi, un gruppo fa questa elaborazione del trauma con la scrittura, hanno trovato lavoro molto più rapidamente quelli che avevano fatto il corso di scrittura. E poi possiamo metterci a interpretare i dati, a capire che evidentemente questo processo della scrittura aveva fatto fare dei passi che poi si manifestavano nei colloqui di lavoro, come più confidenza in se stessi, avevano elaborato il trauma, come dicono gli psicologi, in qualche forma. E notate bene, qua nessuno ti legge, veramente è solo l'atto dello scrivere. Quindi qua abbiamo delle conferme del valore terapeutico. Questo signore Strindberg, il commediografo svedese a casa di Bambor, Strindberg era pazzo, era paranoico, girava per Parigi convinto che nei bar lo volessero avvelenare, era continuamente sul bordo, succede sempre, non se la prende, io ci ho terrorizzato che suoni il mio Strindberg che cosa fa? Dice chiaramente che lo salva la scrittura, lo tiene insieme la scrittura. E in una lettera alla sua amante scrive questa bellissima frase: si ha libertà di mentire su se stesso, su tutti, evochi nemici invisibili, inventi avversari. Si può dire ciò che si vuole, essere folli. Non tutti possono permetterselo e fra quelli che sono abbastanza fortunati da poterlo, non molti osano. ci si può ricavare da questa frase mezza psicosintesi, questo allargamento del campo di coscienza, questo aprirsi ai nostri livelli vari, a dei e demoni dentro di noi, però dandogli una forma, no, una forma che è a un braccio di distanza, che è una forma circoscritta e ha un senso nella storia. Io dico che non esiste altra letteratura che l'autobiografia, anche se scriviamo delle farfalle, scriviamo sempre autobiografia, e talvolta quando scriviamo autobiografia siamo meno efficaci e meno profondi di quando scriviamo scrittura cosiddetta creativa. Per fare un esempio, il grandissimo Philip Roth, che è morto recentemente, per tutta la vita ha seguito col suo alter ego Zuckerberg i passi della sua vita. Gli ultimi libri che io ho trovato meravigliosi, più ancora dei classici come Il pastorale americano, sono quelli sulla vecchiaia, l'invecchiamento, il rapporto con la sessualità nell'età anziana, il rimpianto. Sono libri che accompagnavano il suo percorso esistenziale. Non mi stupisce poi troppo che quando ha deciso di smettere di scrivere, poi si è morto non tanto dopo. È come se avesse concluso. Insomma, talvolta veramente questo accade. Mi viene in mente anche nel cinema Troisi che compra i diritti del postino, sembra una cosa totalmente lontana dalle sue corde, e ci tiene tantissimo a fare quel film, lo fa e muore dopo un viaggio. No, cioè un completare le cose, no? E quindi è veramente la fine del capitolo. Questa affascinante signora è una delle più grandi scrittrici di racconti del secolo breve, del Novecento, Catherine Mansfield. Catherine Mansfield è abbastanza malata, di salute cagionevole, e va a vivere gli ultimissimi anni della sua vita nel, noi oggi diremmo, nella comunità, nell'ashram, la comunità spirituale di un maestro molto particolare, Gurdjieff, vicino in Francia, un maestro molto provocatorio, un maestro. Vi racconto questo episodio perché lo trovo delizioso. Nella comunità c'era una persona insopportabile che litigava con tutti gli altri membri della comunità. Un giorno questa persona fa la sua valigia e va via. Si pagava abbastanza caro per stare a Gurdjieff. Buca, gli altri no, se n'è andato, ora potremmo fare il nostro lavoro spirituale. Beh, Gurdjieff dice: ritrovatemelo assolutamente. Lo richiama e dice: se resti di mezzo il costo della permanenza. Quello dice: non ho intenzione di restare in questa gabbia di matto con questa brutta gente, ti faccio stare gratis, non ci penso neanche, ti do uno stipendio per stare lì, per essere quell'elemento di irritazione, no? Quell'elemento continuo di confronto. Allora, Catherine Mansfield tiene un diario, quindi non ha una vocazione letteraria. Ora qua mi rivolgo agli amici che sono formatori di psicosintesi. Sentite questa frase: fedele a se stesso. Ma a quale se stesso? A quale dei tanti se stesso, che a ben guardare possono essere anche centinaia? Perché con tutti questi complessi e depressioni, vibrazioni e riflessioni, e qua arriva la botta, vi sono momenti in cui ho l'impressione di essere semplicemente il piccolo impiegato di un albergo senza proprietario, affaccendatissimo a registrare i nomi dei risoluti clienti e a consegnare loro le chiavi delle stanze. Qua c'è tutta la psicosintesi. Io lo uso questa frase quando faccio formazione con i psicoterapeuti, perché l'albergo senza proprietario, l'albergo senza proprietario siamo noi disanimati. Quando prendiamo, arriviamo molto a questa parola, disanimati, cioè perdere il contatto con la nostra anima. Dove dico anima è un senso laico, intendo quella parte profonda di noi in cui sono costruiti i valori fondamentali, quelli su cui tracciamo una linea, e diciamo a questi valori mi devo attenere, se li tradisco, tradisco me stesso. Un albergo senza proprietario, quando non sappiamo dove andare, quando siamo in quelle fasi della vita in cui siamo persi, no? Non troviamo più un senso, cioè a stagione nella tua volontà, una pagina anche qui di diario, Tolstoi, una bellissima pagina in cui Tolstoi dice: va bene, avevo la forza di un contadino, potrò stare autore nei campi e poi scrivere per altri autori. La mia famiglia, bella famiglia, mi ama. Posso dire senza falsa modestia che sono famoso. Con i contadini faccio degli esperimenti, faceva educazione, no? Come nella sua temuta faceva la scuola per i figli dei contadini, negli anni di Apolliano. E allora, cioè, nonostante facesse tutte cose così belle e così importanti, comincia a sentire la mancanza di senso della sua vita. E lì c'è un'immagine bellissima, anche se non funziona più nella nostra epoca. Dice: come quando una macchia di inchiostro, una goccia di inchiostro cade sulla carta assorbente sempre nello stesso punto e continua a allargarsi, no? E quindi questa domanda diventa la più importante. E che cosa fa Tolstoi? Scappa di casa a 82 anni. Scappa di casa a 82 anni. Perché? Che cosa vuole fare? Se fosse stato in India sarebbe stata una cosa normalissima, balzagnato. Rinunci a tutto, hai assolto gli obblighi familiari verso la moglie e quindi vai a fare quello che vuoi fare, la tua vita spirituale. In Russia c'è la tradizione dello starez, il pellegrino. Leggete le memorie di un pellegrino russo, piccolo libro formidabile di mistica. E lui scappa di casa, ma pieno anche di ambiguità, perché lo fa sapere alla figlia prediletta più o meno dove. Quindi scappa di casa, ma viene contato. E che cosa accade? Muore in una stazioncina dopo qualche giorno, no? Conclude la sua vita. Vedete di nuovo come certe volte è proprio elegante, no? Il disegno della vita e come è al di là del nostro stato di coscienza. Si crede di essere, di prendere delle decisioni e si seguono le decisioni dell'anima. Allora, qua ho provato a mettere le funzioni della scrittura. Quello catartico è ovvio, è quello degli studenti che scrivono del trauma. Quello terapeutico ancora è ovvio, no? Nella terapia io chiedo molto l'autobiografia, per tanti motivi, ma i motivi più importanti, come dire, me li tengo per me, nel senso che dico: guadagniamo tempo, vengo a conoscere la sua storia meglio. Ma un'autobiografia, per esempio, diventa come un paesaggio in cui ci sono delle zone mancanti, in cui ci sono dei picchi e dà tantissime informazioni, e già diventa un processo di prendere distanza dalla propria storia entrandoci dentro. Il grande paradosso: ci entro dentro e questo mi permette di distanziarmi. È quello che in psicosintesi si chiama la disidentificazione, che non è un olimpico distacco in cui non si viene più toccati dalle nostre vicende, le vicende del mondo, è proprio il contrario. Cioè ci si entra in contatto, ma col cappello dell'esploratore, non perché ci siamo persi nel bosco. E quindi si possono vivere esperienze anche molto dolorose, molto intense, però trasformative. Mi interessa, scusate, bevo un attimo. Mi interessa il valore euristico. Quando si scrive, qualsiasi cosa si scrive, si cerca. Stiamo cercando qualcosa che sappiamo che c'è, ma non è immediatamente accessibile. Quando scriviamo di cose che già sappiamo e che abbiamo ripetuto mille volte, la nostra maniera di raccontare la nostra storia, il copione, si dice, uno psicologo, Eric Berne, dell'analisi transessuale, parlava del copione, ci raccontiamo nella stessa maniera, no? È un po' come le telenovelas, le soap opera, quando un esercizio che si fa a volte nei corsi di scrittura è nelle telenovelas fare dire subito la battuta successiva a chi scrive, e ci si indovina al 70%, perché è un copione, perché è ripetitivo, perché i caratteri sono tagliati con l'accetta. Prospettico, ci indica delle direzioni nella scrittura. La scrittura, anche se parla del passato, si muove verso un futuro. C'è un piacere della scrittura. Io quando sento gli scrittori che dicono questo tormento della pagina bianca, ma se ti tormenta tanto non scrivi. C'è un divertimento, c'è un eros della scrittura. C'è a un certo punto la scrittura prende da sé il suo andamento. Io posso testimoniarlo con questi detenuti semi-analfabeti. Avevo un analfabeta delizioso che voleva partecipare al corso di scrittura, era di Molfetta, provincia di Bari. Allora c'era un barese e lui gli dettava il molfettano le sue parole. Uno degli scritti più belli che sono riuscito a fare con loro, e li utilizzerò presto perché sono veramente belli, è quando ho dato il tema "Il primo crimine non si scorda mai". Rovesciare la prospettiva, no? Serve. Dialogico, come dicevo prima, anche se siamo un po' schizofrenici come Salinger, no? Continua a scrivere, sembra che ci siano 6 o 7 romanzi scritti da Salinger, anche se lui ha rotto praticamente il rapporto col mondo, non parla più con nessuno, per tutto dopo l'enorme successo dei suoi racconti. Poi il giovane Holden continua a essere un testo da far leggere a tutti gli adolescenti, secondo me. È quello che a me piace usare questa parola, logo, è una parola inventata, è un neologismo. Che cosa vuol dire? Che porta significato, che dà significato. È come se ci facesse intuire dei significati profondi. Io quando avevo 26 anni, una persona che stava con me doveva dire di un amico comune che era andato a fare la scuola di sanità. La scuola di sanità era la scuola per i medici militari. Lei fece un lapsus e disse: è andato a fare la scuola di santità. E a me pare geniale questo lapsus, perché non è che vai semplicemente in monastero, no, vai in una scuola dove si lavora per diventare santo. Era molto anche sull'influenza di Herman Hesse, del gioco delle belle di vetro, eccetera. E quindi questa espressione mi ha scatenato proprio una trama che ho buttato giù in un'ora, e poi ho scritto il romanzo. E mentre lo scrivevo, la parte di me che studiava psicosintesi, c'era una parte che diceva: guarda che qua parli di te e tuo padre, anche se era ambientato in un medioevo immaginario, se era quello che oggi si chiamerebbe una sorta di fantasy, eh? E invece sapevo che c'era, che mi stava dicendo, mi portava significato, ma ho detto: non lo voglio sapere perché non ho finito di scrivere, non voglio spostarmi dall'altra riva, dall'altra riva. Questo era quello che dicevo, chi scrive a Cristo. Scriviamo sempre, questa è un'immagine di Escher, sempre scriviamo a qualcuno. A me è capitata una cosa molto, mi ha toccato molto, la mia agente di viaggio, quindi è una persona per me importantissima, perché da quando avevo 20 anni mi mandava a giro per il mondo, e trovandomi combinazioni super economiche, interessanti. Beh, questa donna a un certo punto diventa nonna ed ha un cattivo rapporto con la moglie del figlio, ha un pessimo rapporto, tanto che i contatti sono limitatissimi. E lei dice: mi spiace che i miei nipoti non sappiano chi sono, no? E quindi mi chiede una consulenza autobiografica, perché voleva scrivere la sua autobiografia, un memoir. Quindi, come guardare in corso, cosa che abbiamo fatto, era anche interessante questo scambio di ruoli. Lei era la persona che mi portava in giro per il mondo, io cercavo di aiutarla a scrivere questa storia. 2 anni dopo è morta di tumore e questo memoir è stato dato al figlio. Quindi noi ci abbiamo anche un bisogno di raccontarci. Ecco, a me piace usare questi due esempi: la bacchetta del raddomante che cerca l'acqua sottoterra e l'antenna che riceve segnali dall'alto. Vedete qua, poi ora lo vedremo anche in una slide, questo siamo noi, questo uovo per la psicosintesi, siamo noi, siamo la nostra parte istintuale, biologica, potente, complessuale, siamo la nostra parte cosciente, questo piccolo cerchio nel mezzo da cui guardiamo, cerchiamo di esplorare questi territori, esploriamo queste parti mediane più accessibili, ma siamo anche questa parte che qua è uno dei punti geniali del lavoro di Assagioli, dell'inconscio superiore, cioè di questa parte di noi che si riferisce al nostro potenziale massimo, da cui vengono le grandi intuizioni, la bellezza, la giustizia, l'amore, tutte quelle caratteristiche, come si diceva prima, che ci fanno più umani, che danno senso, no? E il nostro lavoro è chiaro che noi non li raggiungiamo mai, forse quando diventeremo Buddha, dice che si può diventare tutti, bisogna avere un po' di pazienza, però non raggiungiamo mai una conoscenza del tutto. Però per esempio cominciamo, prima Mara diceva conosci, possiedi, trasformi. Il conosci è entrare in contatto con i vari livelli di noi. Allora la scrittura può essere un buon modo. Il possiedi io lo trasformerei nella parola accetta. Cioè, questo è quello che sono, questo è quello che sono, bellezze e bruttezze, meschinità e generosità, no? Quando Catherine Mansfield scrive di questi centinaia di quei personaggi interni, scrive qualcosa, gli scrittori hanno sempre scritto di psicologia molto meglio degli psicologi. L'unico che scriveva veramente bene era Freud, che vince il premio Goethe per la letteratura, mica per le sue idee. No, interessante. Chiunque, a mio parere, scriveva male. A Sagioli non amava poi scrivere tanto, non era la sua passione, preferiva insegnare. Infatti da 70 anni non ha scritto quasi niente, i libri vengono nell'ultima parte della sua vita, e per uno che ha lavorato veramente attraverso tutto il Novecento ha scritto 3 o 4 libri, però ha scritto una fiaba, Favola e Re Interiore, e se la leggete, questa c'è tutta la psicosintesi prima di che l'avesse elaborata. È anche la bacchetta magica di Harry Potter, la scrittura, no? C'è una bellissima fiaba, novella di Pirandello, in cui lui è capocomico, no? Non è soltanto drammaturgo, è capocomico, c'è la sua compagnia. E quindi immagina di ricevere non i suoi attori, ma i suoi personaggi, che dicono: io quella lì non la voglio sposare, io voglio più spazio, io sono stanco di avere questo ruolo periferico nella storia, eccetera. No? C'è questa rapporto col mondo interno, quello che è al centro del campo di coscienza nella tradizione sapienziale è chiamato l'osservatore, il testimone. Ma non è solo consapevolezza, è consapevolezza e volontà, è il direttore dell'orchestra interna, è l'amministratore è il povero amministratore dell'albergo. Io a volte uso come metafora, perché la capiamo tutti, quella dell'amministratore del condominio. la riunione di condominio, lei è amministratore di condominio. Ha fatto un riunimento. Ha fatto una bella esperienza di 5-3 di gruppo. Sì. Potrebbe fare dei corsi. Adesso da 5 anni però sto cercando di entrare in questo nuovo. È passata al condominio interno, dai. Sì. Condominio esterno. Allora, perché chiaramente alle nostre, noi siamo tante cose. E quindi queste tante cose non necessariamente vanno d'accordo, non necessariamente la nostra parte. Infatti è molto interessante, per esempio, vedere le persone nei diversi contesti, come vengono proprio quelle che noi chiamiamo, con una parola non felicissima, subpersonalità. Subpersonalità. Anni fa negli Stati Uniti si diagnosticava molto la sindrome delle personalità multiple, in cui una, che so io, decorosa madre di famiglia molto religiosa si ritrovava che era nel letto con uno sconosciuto a 200 km di distanza ubriaca e non sapeva come c'era arrivata, come se fossero personaggi interni scissi, senza un io che è consapevole. Però queste sono espressioni di patologia avanzata, no? Lo schizofrenico che uccide una persona e poi chiede come mai non viene trovato. Questo lo conosco per esperienza abbastanza vicina. E quindi il lavoro della scrittura è essere quello che dà voce alle varie parti, che le accoglie nella storia. È molto interessante perché chiunque scriva, qualunque romanziere dice, se sei tutto il tuo personaggio prima di scriverlo, non funzionerà, sarà pianto. Io ricordo una volta che volevo scrivere un racconto in cui l'uomo era quello bravo, interessato alle cose profonde della vita, e la sua compagna era una persona molto borghese, molto, io sono nato a Lucca, si dice quella col foulard di Hermès legata alla borsa di Hermès. per individuare la tua. Oh, man mano che scrivevo, l'uomo diventava un cretino e la donna diventava sempre più interessante, sempre più profonda, no? La complessità, l'esplorazione della complessità che può essere fatta. Io non credo alla distinzione fra narrativa, invenzione, fiction e non fiction, finzione e non finzione. Come dicevo prima, ci può essere più verità in un raccontino che scriviamo che in un'autobiografia. E usare, mescolare le carte ci aiuta. Questo lo abbiamo appena commentato. Allora, qua mi interessa parlare della universalità della scrittura. Questa è una tenda, una capanna Navajo. Siamo in una riserva Navajo, nativi americani, indiani. Guardate che anche buffo che li chiamiamo indiani. Uno dei più clamorosi sbagli di strada mai fatti nella vita, che si ribattezza una popolazione con il nome di un'altra a 10.000 km di distanza. Allora, indiani Navajo. Uno scrittore, Guido Piovene, fece un viaggio in queste riserve indiane. Ora stanno un pochino meglio, ma erano negli anni 70, 60 e 70 erano ridotti malissimo, cioè ghettizzati in queste riserve, alcolizzati per lo più un po' come gli aborigeni in Australia, deprivati delle loro terre quando erano terre buone. E questo era lo status degli indiani, quindi diremmo noi sotto proletariato disperso proprio e sfruttato. Beh, Guido Piovene visita questa riserva e un indiano gli dice: italiano, sinone, vino e pane. Aveva detto vino e pane, che è un romanzo che racconta quelli che chiamava i capponi della Marsica, cioè di quella parte degli Abruzzi che appunto era nelle stesse condizioni o simili a quelle degli indiani d'America. dei galantaci, no? È incredibile, no? E soprattutto è incredibile questa meraviglia di come ci si riconosce in Navarro, no? Quindi questa trascendenza anche dei dati culturali, che è il motivo per cui non possiamo leggere Dante, possiamo leggere I segreti della Camera Gialla cinese, possiamo leggere la Bhagavad Gita, e tocca quei temi universali trascendenti che ci appartengono a tutti. Beh, eccolo qua. E qua concludo con questa immagine di Assagioli e questa citazione: dall'eterno, out of the past, fuori dal passato, nel presente, per il futuro. Grazie. Ora se forse abbiamo un pochino di tempo per, se volete, commentare, condividere, non dico fare domande, perché non c'è domande per modo di dire, ma insomma quello che vi pare, vogliamo comunicare rispetto a questo. Prego. Allora, io ho apprezzato moltissimo la sua espressione semplice, tranquilla, che ci ha fatto capire quali sono le cose che si possono fare e le cose che si possono non fare. Le chiedevo solo questo: il romanzo autobiografico è un qualcosa che rimane per la persona che lo scrive e per una stretta cerchia di parenti e amici? Perché credo che un romanzo autobiografico darlo a me stato significa buttare dei soldi che poi non tornano. Comunque io la ringrazio moltissimo, perché sono felicissimo di questa serata, e darò il nome alla signorina che ci darà il primo nome che scrive. Ok? Grazie. Beh, è interessante quando le acque vengono contaminate, perché sì, un memoir come quello della mia amica Gente di Viaggio è autobiografico e non vuole essere romanzo, però mescolare continuamente invece aspetti che appartengono alla nostra vita con elementi di invenzione, secondo me ci porta a utilizzare anche la forza dell'alto e del basso, e quindi diventa più potente. Allora io comincio questo corso con questi adolescenti che quindi mi racconteranno bene d'amore, conflitti con i genitori, non capisco nulla e così via, però ho intenzione di mettergli nel mezzo, come dire, voi siete vicini alle montagne, come dei paletti da slalom, e questi paletti sono: sì, va bene, tu mi scrivi di questo conflitto, però mi ci deve mettere anche una suora nana. Ci vuole una suora nana, e la suora nana farà succedere qualcosa e ti porterà a uscire da quella ripetitiva maniera di raccontarti, perché ti obbligherà a fare qualche cosa di diverso. E poi ci sono altri trucchi, ma non vi dico perché qua c'è il seminario, non me li voglio giocare. Allora, fare questa terreno, io dico, vi racconto una cosa: tantissimi anni fa, dunque esattamente 20 anni fa, si faceva a Lucca un'iniziativa, un festival letterario che si chiamava Lucca oltre le mura. Lucca, sapete che c'è una cerchia di mura che è bellissima ma anche soffoca, e c'erano vari corsi, c'erano poeti come Valerio Magrelli, sceneggiatori come Vincenzo Cerano, sceneggiatore del film di Benigni, c'erano tante. e a me fu chiesto di fare un corso di scrittura autobiografica che si chiamava Scrivere se stessi. E io pensavo, una settimana, dissi, oh, finalmente un corso in cui non mi devo occupare del benessere psicologico delle persone, ma mi devo occupare dei congiuntivi, della struttura della storia, del movimento narrativo, eccetera. Quindi un corso di verità. E quindi questa era la mia intenzione, che dissi fin dall'inizio: io sono qui come scrittore, non esiste lo psicologo, non dirò una parola che appartenga al gergo psicologico, e se vi suicidate è una scelta con cui io non interferirò, tanto avete pagato. E che cosa questa settimana di scrittura è stato uno dei seminari di gruppo più intensi dal punto di vista psicologico che mi è capitato in casa, molto più intenso degli altri. E la cosa interessante è che io mi sono realmente attenuto alla regola di partenza, cioè qua si lavora su ridurre lo scarto fra ciò che tu vuoi dire e la maniera in cui lo stai dicendo, di diminuire questo gap che abbiamo tra quello, il nostro mondo interno e la maniera in cui lo raccontiamo. Si lavora quindi sulla forma, si lavora sui temi e così via. Di per sé questo fece accadere molte cose, ed è un corso accaduto 20 anni fa in cui 4 o 5 persone sono ancora in rapporto fra di loro, hanno scritto, hanno creato cose, eccetera. Quindi e può essere un metodo veramente di lavoro con grosse implicazioni. Sì? Scusi la domanda banale, la differenza tra scrivere a mano o scrivere Non è banale per niente, non è banale per niente, avete sentito tutti. Allora, cosa tiene? La differenza tra scrivere a mano e scrivere a computer. Allora, sono idiosincrasie, nel senso che ognuno, un mio amico scrittore brasiliano diceva: il gobbo conosce la sua dormita, come deve mettere. Significa che, per esempio, Ermanesse, quando scoprì la macchina da scrivere nuova, si entusiasmò enormemente perché gli permetteva di scrivere più veloce e di seguire il flusso del pensiero più rapidamente. Stevenson, quando va nei mari del sud, si porta una gigantesca macchina da scrivere. Altre persone non possono concepire di non partire a mano. A me personalmente piace la sensualità della mano sul foglio, di scegliere un bel quaderno, di scegliere una carta. E quindi per molto tempo, per esempio, la mia maniera di lavorare era stesura a mano, scrivere al computer la seconda stesura, correggere a mano, rimettere nel computer, che ognuna delle due cose dà dei vantaggi e degli svantaggi. Ora, per esempio, sto scrivendo e ho deciso di cominciare, di provare un nuovo metodo, e scrivo direttamente nel computer, ma scrivo insomma in una maniera diversa rispetto a prima, non ho scalette, eccetera. Quindi il punto non è che cosa scegli, il punto è sapere perché lo scegli, è sapere perché uso quel mezzo piuttosto che un altro. Montanelli, cioè aveva l'Olivetti, lettera 42, non la 22, e ci poteva essere tutti i computer del mondo, non voleva, perché esiste proprio un rapporto con la materia, no? Io per esempio dico: se uno scrive a mano deve scegliere anche la penna e la carta, deve scegliere una penna fluida, per esempio una stilografica, un bel pennarello che scorra, perché l'idea è che devo stare dietro. Però il punto, io ho fatto una tesi, quando mi sono lavorato in psicologia ho fatto una tesi sugli artisti, mi interessava la personalità creativa, e prima dovevo fare sugli scrittori, poi l'ho fatto su pittori, però leggendo biografie degli scrittori, quello che ho visto è: i metodi sono diversissimi, ma c'è un metodo. Moravia, 9-12, un impiegato. 9:12 scrittura, pomeriggio al cinema, la sera con gli amici. Un abitudinario assoluto. E l'ha mantenuto. Sempre. Andava a cinema, faceva il critico letterario per l'Espresso e il critico cinematografico per l'Espresso. Leggeva il giornale e poi si metteva a scrivere. Balzac scriveva per debiti ed era capace di scrivere bevendo 40 caffè in un giorno e scriveva 18 ore al giorno perché era sempre dietro ai debiti. Quindi scriveva tantissimo ma sotto pressione. E ognuno trova un metodo. Infatti le interviste degli scrittori sono interessanti perché pensate a Proust, che fa la sua vita mondana, frequenta, va, osserva e poi si chiude nella stanza foderata di sughero. Nello stesso periodo c'è Zola che scrive ai tavolini dei bar. Hemingway, 2000 parole al giorno. Domani voglio andare a pescare e ne devo scrivere 4000. Quindi è molto interessante lavorare sul proprio metodo, perché è la potenza del rito. Che cos'è un rito? Un rito è un insieme di azioni volte a favorire un certo stato di coscienza. Pensate alla lettera di Machiavelli a Francesco del Ponte. Il giorno mi ingaglioffo nelle osterie, la sera mi vesto di quei panni che solo sono miei. E io sono convinto che si vestisse anche, che non sia solo una metafora, che realmente sia, sì, che fosse una cosa reale, no? Creare un proprio... Uno interessantissimo, Simenon. Simenon ha scritto, si vantava di due cose: di aver avuto 10.000 donne. Ah, però? Sì, 10.000 donne. Ma non c'era un gran merito, perché erano per lo più prostitute. A me non impressiona tanto quello quanto il fatto che ha scritto 500 libri. 500 libri ha scritto. Tanto che però era velocissimo. E che cosa faceva Simenon? Sì, intanto aveva gli elenchi del telefono di tutte le città europee e sceglieva dei nomi e metteva dei fogliettini con i nomi dei personaggi. Aveva un set di matite, lui scriveva a matita, aveva un set di matite appuntite. E quando partiva non sapeva solo chi moriva, ma non sapeva chi era l'assassino. È interessantissimo. Lo scopriva mamma, in 15 giorni finiva il romanzo. E poi festeggiamo. Lascio immaginare. Rivediamo spesso i romanzi di Simenon. Rivediamo spesso i romanzi di Simenon. Il romanzo di Simenon è interessante perché lui si metteva evidentemente proprio in un flusso di inconscio perché, e poi dice una cosa bellissima sul rapporto col personaggio. Dice man mano che comincio a capire chi è l'assassino mi dispiace perché mi ci sono affezionato. Lui aveva cominciato come cronista di cronaca nera. Sì? Volevo chiedere una cosa, se nella tua esperienza nei corsi di scrittura c'era, è anche contemplato lo scrivere quello che ti ha raccontato qualcun altro, nel senso che io ho fatto questa esperienza casualmente di una persona che mi faceva tantissimi racconti e io li mettevo per iscritto e scrivevo questi racconti, poi in quel periodo facevo un corso di scrittura e questi racconti diventavano qualcosa di molto particolare perché c'era l'emozione che io ricevevo da quei racconti, però poi mettendoli per iscritto c'era tutto il mio immaginario che si instaurava. Quindi volevo chiederti se in questa esperienza c'è qualcosa. Sì, perché per esempio forse sapete che in Italia c'è la libera università dell'autobiografia fondata da uno scrittore che era Saverio Tutino, di cui era del Piemonte, e un docente di pedagogia che si chiama Lucio De Meglio. Quindi tengono delle settimane estive, dei corsi, fanno un lavoro da 25 anni o 30 su questo. Una delle cose belle che hanno fatto, mi ha dato sentire un convegno, era proprio questo: io vorrei raccontare la storia della mia vita, ma io non so scrivere, non ho voglia di scrivere, la racconto a te che diventi il mio biografo. E quando è finita ne stampiamo tre copie, una per te, una per me e una per l'associazione, che resta l'associazione. Allora, la cosa molto interessante, io scrivo la storia della tua vita come l'ho raccolta, e poi tu te la faccio leggere e ti dici no, queste cose qui va sviluppata, vorrei parlare di più, questo invece preferisco saltare, questo non mi piace, eccetera. Quindi si fa un contratto, diciamo, sull'autoguerra. Allora io vado a questo convegno e ci sono molti di questi libri. La maggior parte persone che non hanno avuto, non erano Dostoevskij o il grande esploratore, la vita è normale, quella cosa. Allora, la cosa è che comincio a leggerli, non mi fermavo più, non mi fermavo più, ne sono comprati 5 o 6, perché erano bellissime queste raccolte e vengono da un rapporto dialogico. Quindi, ed è molto interessante che continua, a un certo punto ti riconosci, più di una persona mi ha detto, magari sapendo le tue identità di scrittore, dice perché non scrive la mia vita, un paziente, io dico la scrivo a lei. No, l'espressione della mia vita è un romanzo. No, ma nel momento in cui si mettono d'accordo e vanno avanti, perché se si mettono d'accordo dopo un po' di tempo, ah ma no, ma forse, quindi già convinti dall'inizio che si arriva e si arriva a fondo. Bisogna arrivare a fondo, certo. Perché se ho un racconto di 50 parole o un romanzo, bisogna arrivare a fondo, bisogna chiudere la vista. Forse abbiamo ancora, sì, ancora due domande, la ragazza in fondo. Collegandomi a quello che ha detto la signora. Collegandomi a quello che ha detto la signora e a quello che ha detto prima, cioè quando si scrive si cerca qualcosa, lei crede che scrivendo la storia di qualcuno, cioè scrivendo appunto una biografia, sia anche una forma di terapia? Che poco tempo fa ho appena finito di leggere la biografia di Nadine Bly, la prima reporter americana che ha appunto fatto nascere il giornalismo d'inchiesta, e per il momento io personalmente sto scrivendo una biografia storica su un'esperienza di guerra vissuta da mia madre. Quindi io, almeno come la vedo io, mi aiuta a scrivere su qualcuno, quindi volevo appunto vedere questo. Senta, io dico, forzando un po' la cosa, ma prenda la parola non in un senso negativo, noi scriviamo delle nostre ossessioni di quelle cose che sentiamo irrisolte, che vogliono essere esplorate. Lei racconta una storia di guerra e un'altra storia di guerra, una storia di guerra l'ha interessata, un'altra storia di guerra vuole raccontare. Io pensavo, per esempio, per molto tempo ho scritto di viaggi perché avevo questa travel bug, come si dice, la pulce del viaggio. A un certo punto ho sentito che ci avevo fatto i conti e che quindi non volevo essere scatolato nella letteratura di viaggio per tutto il resto della vita. L'altra ossessione per me è stato lo sport che pratico da quando avevo 10 anni, quindi siamo a 58 anni di pratica sportiva. E mi sono chiesto, ma che cosa mi fa appassionare così alla scherma in questo caso? Perché è un duello per la vita o per la morte, punto. L'inconscio non lo sa, ci abbiamo un'arma in mano, si combatte, non ci sono sfumature, uno ha vinto e l'altro ha perso, uno vince e l'altro va a casa, è una piccola morte. Allora mi interessava molto tutto quello che c'era intorno al tema del duello. Mi sono messo a leggere i maestri giapponesi dell'arte della spada, mi sono riguardato Dumas e ero molto toccato, voglio fare un test con voi. Évariste Galois è una delle storie che racconto nel libro Duelli. Évariste Galois è un matematico di 19 anni, un genio, talmente genio, però anche un po' oscuro, che tutti capiscono che è un genio ma non riescono a capire le sue teorie. È anche un repubblicano convinto nel tempo della restaurazione monarchica in Francia, siamo nei primi dell'Ottocento, quindi è un rivoluzionario, viene sfidato a duello per una storia di donne, ma sembra che fosse una provocazione per portarlo sul campo del duello e levarselo di torno, che fosse questo il movimento. E allora Évariste Galois passerà, non è uno spadaccino, anzi in questo, nella realtà storica stiamo parlando di pistola, è un duello alla pistola, io l'ho trasformato in uno spadaccino, però non, si confronta con uno che ha già fatto molti duelli, quindi come tutti quelli che fanno un duello sa che può morire il giorno dopo, e passerà la notte scrivendo. Io vi chiedo se voi sapeste che domani avete un duello, uomini, donne, che domani avete un duello e che quindi non sapete se c'è un'altra sera, come passereste la vostra notte? Vorrei qualche risposta. È difficile stare in casa. È molto, molto concreta. Lei domani c'è un duello sul fiume Tale. Di giù nel prato con la pistola, lei è quell'amica che non sopporta più. Io penso che non dormirebbe, la persona sia forse una persona che lo vive sul duello. No, io non voglio una cosa generica, vado a vedere il punto dove mi incontro domani per studiare un po' il posto. Un'ipotesi, mi preparo al duello per cercare di vincere. Io dormo. Prepararmi al duello perché devo rovinarmi una notte. Io lo vorrei passare facendo l'amore. Io vorrei abbracciare i miei figli e i miei genitori. Abbracciare i figli, prego. Io vorrei lasciare una traccia di me. Sì. Quindi scrivo qualcosa della mia vita importante, sì, e faccio un gran bel testamento. Sì. Il testamento, il testamento spirituale, tutte ipotesi molto. Ah, ne manca ancora una. Io scappo. Questa è anche una possibilità, ma non la concedo. Lei l'altra. Uno prega. Ecco, mi mancava questa. Uno prega, una persona può decidere di pregare. Bene, sapete che fece Galois? Scrisse le sue teorie matematiche continuamente aggiungendo je ne parle tant, quindi saltando le dimostrazioni perché non aveva tempo. Le equazioni di Galois sono state capite 40 anni dopo e vengono ancora usate. Ma lui ha perso o ha vinto? Ha perso. E quindi ha lasciato, è morto, ha lasciato questi modi e 40 anni dopo sono stati capiti e tuttora vengono usate le cose. Ma quelli che ha cercato questi duelli così per divertimento erano buoni. Ma sa, è molto interessante questo perché c'era la questione del codice d'onore. Il duello parte come giudizio di Dio, come giudizio di Dio lo portano i Longobardi, lo portano a Longobardi, e allora se tu metti in dubbio l'onore della regina, la regina sceglie, o qualcuno si offre di duellare per la regina, e se la regina è innocente vuol dire che vincerà il suo campione, giudizio di Dio, non lo sta lì. Poi scendendo nel tempo entra il discorso dell'onore, e per esempio è molto interessante che ci sono dei codici contraddittori, perché l'abolizione del duello è relativamente, diciamo, nel 1920 mi pare che viene proibito il duello sull'onda della morte di Felice Cavallotti, il deputato che viene trafitto alla voce. Però se tu sei un militare e vieni sfidato da un pari grado devi duellare. Il libro, io non volevo parlare di libro, dico solo una cosa, il libro è stato innescato dal fatto che nel 1973, quindi non nel 1700, un signore mi telefonò, mi chiese di avere delle lezioni di scherma, era un conoscente della famiglia, io ero assolutamente stupefatto che questo signore che aveva 63 anni volesse delle lezioni di scherma durante le vacanze di Pasqua, al quarto giorno viene fuori che ha sfidato a due una lezione. Cioè, lei ha dovuto prepararlo. E alla fine come? È l'ultima pagina del libro. Lei è molto preparato comunque. Io ho scelto di prepararlo, lui mi ha dato la scelta. E l'età che aveva, penso che fosse da un certo punto di vista. Sono cose complesse, però io. Lui mi dette al momento, non me lo disse subito, me lo disse dopo alcuni giorni. E mi disse anche, se tu vuoi, ti ritiri. Io a quel tempo pensavo di fare il concorso nella magistratura, pensavo, ecco, finita una carriera, sono già nel penale, non ho neanche preso la laurea. E andai a consultare il codice penale, c'ero dentro, avevo ragione. E quindi dovevi scegliere se continuare a dare lezioni o no. Sì, c'era questo signore, sì. Quest'ultima del duello di Luanda ha ricordato uno splendido racconto di Borges, che viene fucilato una persona e mentre arriva la pallottola lui compone il dramma della sua vita, compone il romanzo della sua vita, ha tutto il tempo per comporlo e nel momento in cui finisce arriva al pallottolo e viene ucciso. Bellissimo, bellissimo lavoro. Altro tema, mi attacco a quello che era stato detto, narrare le storie di altri. Io lo sto cominciando a utilizzare in azienda perché io lavoro nelle risorse umane e arrivano conflitti, sostanzialmente conflitti, le difficoltà, l'azienda è un postaccio. Non c'è tutte le aziende, non solo quelle che contano. Quindi usare, far rinnarrare alla persona quello che sta succedendo. Sì. E vedo che è molto trasformativo. La domanda era, ha esperienza nel mondo dell'azienda, dell'uso della scrittura, come... Ebbene sì. Intanto le riporto una cosa curiosa, che nella Ferrari c'era una formatrice, una consulente che usava le fiale, una azienda ipertecnologica come la Ferrari che utilizza le fiale. L'idea della narrazione, sì, io ho usato la scrittura, sono stato coinvolto da un amico che fa questo lavoro di una società di consulenza e che era venuto abbastanza per caso a seguire delle lezioni di un corso di scrittura di viaggio e mi ha chiesto di portare la scrittura nel lavoro con i gruppi nella sua azienda, per esempio sull'elaborare temi come i conflittuali, sull'elaborare il tema del sì e del no, dei sì giusti, dei sì sbagliati, dei non giusti, dei non giusti. E bene, ci siamo molto divertiti per un programma di formazione, perché più molto serio, nel senso che è partito dal vertice dell'azienda e è arrivato ai junior ed è durato 4 anni con una grande azienda, una multinazionale, quindi tutto santo. Sì, molto interessante, perché poi, ecco, concludo con una cosa sulla narrazione. Se la nostra vita la narriamo male, in una maniera piatta, in una maniera ripetitiva, vuol dire che siamo dentro un circolo vizioso. No? La terapia comincia nel cambiare la narrazione. Cioè, faccio un esempio. Prima i personaggi sono stereotipati. Mia madre è così, mio padre è così, io così vittima del destino ingrato che mi ha messo in questa famiglia. Cioè, i personaggi sono piatti, sono figurine come nelle soap. Poi man mano si cominciano a complessificare. E per esempio questa madre, che oggettivamente è stata una madre patogena, difficile, però uno si comincia a chiedere, ma prima di essere madre è stata figlia. Com'era questa donna, la bambina? E il personaggio si complessifica. e i veri personaggi sono quelli che non si risolvono mai completamente. Che non... pensiamo a Achille, pensiamo a Achille la bestia, no? Che prende il corpo di Ettore e lo sfregia facendo il giro delle mura di Troia, no? Nessun rispetto per il cadavere, per l'avversario. Priamo attraversa di notte il campo, va a chiedere il corpo di Ettore ad Achille e insieme piangono. Ecco che Achille, no? Non è più solo quella forza. Infatti io sono stato molto irritato da vedere quel film con Brad Pitt, che sembrava veramente, non lo so, Hulk, invece che un personaggio così completo. Quindi una terapia che funziona, una psicosintesi che funziona, non parliamo necessariamente di terapia, parliamo di un processo di lavoro personale. Una psicosintesi che funziona è fare una narrazione più profonda, più interessante, più sorprendente, anche per noi stessi. Prego. Posso una domanda di questa molto banale, diciamo. Dove esiste una domanda banale? Sì, ho visto che non sono parlato di. Funziona. Ho sempre parlato di scrittura, io volevo sapere il rapporto che c'è con la lettura, che amici dall'altro lato. Cioè se può aiutare, sia se può aiutare ad avere maggiori strumenti, sia se magari incontrando un libro che tocca determinate corde si può fare un viaggio simile, cioè forse che si fa con la scrittura, una cosa così. Altro che banale, grazie per questa domanda, perché ora per esempio esiste proprio una formazione in biblioterapia, un po' meccanica, un po' anche banalizzante spesso, questo sì. Però io quando comincio un rapporto individuale con una persona, questo è accaduto anche ieri, una giovane donna, studentessa universitaria, che viene portando un tema di grande ansia e di poca capacità di dire di no, nel senso dico sempre va bene, lo stesso, porta questi due temi. Io le chiedo a un certo punto di questo primo incontro, le chiedo che cosa le piace veramente nella vita, perché è bene esplorare non solo la parte complessuale ma la parte della bellezza. E lei mi dice leggere e scrivere, e io dico quali sono i suoi idee nella scrittura, e lei mi dice Eugénie Grandet di Balzac, una donna giovane, no? E 1984 di Orwell, cioè tre libri classici, libri di 70, 100, 150 anni. Non avrei mai saputo chi era questa persona se non mi parlava dei suoi libri. A stagione mi dava un libro alla settimana da leggere, un libro alla settimana. Quindi ci sono libri che ci hanno fatto, io sono di quella generazione che o faceva la rivoluzione o andava in India, e ho letto Siddhartha e sono andato in India. E per anni mi sono chiesto, mi interessava vedere una cosa, tutto libri, pubblicava sempre la classifica dei libri, e il Siddhartha continuava a essere sempre nella classifica della narrativa straniera, mai al primo posto, ma continuava a esserci. Sapete quante edizioni ci sono state di Siddhartha in Italia? 90. 90 edizioni. Riscuotere i diritti d'autore deve essere interessante. Quindi sì, assolutamente sì, dare libri. Io penso che un po' come fare Fahrenheit 451, in cui le persone imparano a memoria un libro, no? Ma scegliamo dei libri che sono fratelli. Io conoscevo un vecchio psichiatra, organicista, mi disse la stagione quel visionario, quello di cui dopo così. E lui era un uomo molto corto, e mi diceva, e lui diceva, ora vado a trovare il mio amico Julian Green, che è uno scrittore che ha scritto diario per tutta la vita. E lui pomeriggio sentiva di avere un appuntamento con Julian Green. Quindi assolutamente sì, sarebbe bello fare una lista dei un centro di psicosintesi deve avere tanta narrativa. Glielo dice a lei. Lo dico alla vice di ricerca, a questa volta. Abbiamo una bella biblioteca fuori, non così tanto di narrativa, ma la nostra biblioteca. Invece io credo che la narrativa sia più incisiva del. C'ha più libertà. Bene, forse ci possiamo.